Al mese e mezzo di occupazione è stato un mese e mezzo appassionante, ci ha visto un po' tutti impegnati nella ristrutturazione e sistemazione del grande edificio, che ricordo è in via di Porticella, angolo via dei Fiammelli, ad un passo dal giardino, insomma, storico di via Porticella. Insomma, sono state settimane entusiasmanti perché hanno riportato un po' l'energia collettiva dell'autogestione dentro quella struttura abbandonata e possiamo dire che siamo pronti per aprire a tutti e a tutte le attività dello spazio. Naturalmente non sono state settimane soltanto di lavori tecnici, diciamo così, ma sono state anche settimane di inchiesta, soprattutto legate al territorio, di reciprocità e di conoscenza con i vicini di casa, i residenti e quella periferia nord di Bologna che comunque conosciamo bene perché storicamente ha ospitato i vari crash sgomberati negli anni ormai da lontano 2003. Quindi sono stati un mese e mezzo molto bello, appassionante, in cui abbiamo provato sia a capire le esigenze del territorio, sia quelle storiche che quelle nuove, insomma, legate più alle giovani generazioni. E poi è stato, insomma, il mese dell'impegno per strutturare bene i locali che inaugureremo proprio domenica prossima. E a proposito del confronto con i residenti, ti chiedo se ci puoi anticipare quali sono alcuni dei bisogni che sono emersi maggiormente. Soprattutto ci è stato fatto notare come quella zona ha una forte carenza di centri aggregativi per i giovani e giovanissimi, sia persone, come dire, un po' più grandi di età che anche poi diretti interessati, quindi adolescenti e giovani operai, ci hanno fatto un po' tutti riferimento al fatto che luoghi di cultura e di aggregazione in quella parte del quartiere Navile non ce ne sono e per chi, insomma, vuole trascorrere anche il dopo lavoro o il dopo scuola in compagnia, godendosi o costruendo anche progetti culturali e controculturali, deve spostarsi fino al centro. Questo è stato un po', diciamo così, uno dei discorsi principali che ci è stato fatto. Poi dall'altra parte, parlando anche con altre persone, insomma altri vicini e residenti, si è fatto riferimento a numerose esigenze di carattere, se vogliamo, più sociale, quindi non solo ricreativo, come la necessità di aprire una riflessione sui servizi della sanità, sui luoghi, come dire, di ascolto delle nuove vecchie pubertà, sia delle persone più anziane che delle giovanissime coppie. Insomma, questi sono stati un po' i primi feedback che abbiamo avuto dal quartiere, che ci è sembrato un quartiere, una parte del quartiere che vede già un tessuto di reciprocità molto attiva, che ci ha subito ospitato molto volentieri e che noi, come abbiamo spiegato a tutti quelli che ci sono venuti a trovare, ci vedrà messi a servizio per consolidare queste forme di reciprocità preesistenti e, perché no, dare, insomma, il nostro contributo perché i legami sociali siano più forti, concreti e costruiti con il sale della partecipazione. Ecco, voi avete detto di aver preso quello stabile in custodia sociale e oggi è un termine che si usa molto, quello di rigenerazione, però spesso calata dall'alto, voi dite noi facciamo rigenerazione dal basso. Sì, sono due modi profondamente differenti di praticare la rigenerazione. Per quanto ci riguarda, rigenerazione dal basso è una prassi che coinvolge direttamente il territorio, ma non in una kermesse o in un convegno da fare una volta all'anno. È una prassi quotidiana di tutti i giorni, a partire ad esempio da questi momenti di inchiesta che stiamo facendo, di cui vi ho raccontato, insomma, proprio i primi passi. Per noi rigenerazione ha a che fare soprattutto con questo, ovvero con percorsi collettivi di partecipazione e costruzione di beni comuni. In questo caso una struttura di ex Banca Etruria, quindi, se vogliamo, anche il simbolo della speculazione e della corruzione più disgraziata degli ultimi anni in Italia. A partire da questa occupazione si può praticare una rigenerazione realmente efficace e che, fuori di ogni retorica, risponda veramente alle esigenze del territorio, che prima aveva un mostro della speculazione e oggi, perché no, possiamo progettare insieme un luogo invece bello, aperto, inclusivo, capace di produrre quelle alternative reali di cui c'è davvero bisogno. E a questo punto cosa succederà domenica? Allora, domenica sarà l'inaugurazione, di fatto è un nuovo momento per incontrarci collettivamente con la gente del quartiere, i residenti, ma naturalmente con tutta la città che ci verrà a trovare. Ci sarà il mercatino biologico con i produttori di campi aperti che verranno anche in segno di solidarietà per la nuova occupazione. Ci saranno degli stand legati a diversi prodotti che vanno dal vintage fino alle librerie della città, verranno a crescere e porteranno i loro testi più interessanti, ancora banchetti con i vinili, la possibilità di ascoltare e scegliere il vinile da prendere proprio sul momento. E poi ci saranno tante altre attività, se vogliamo, ricreative per i più piccoli, quindi per le famiglie che verranno ci sarà l'occasione di rilassarsi anche con i progetti legati più ai più piccoli e ai bambini e poi ascoltare un po' di musica insieme. Infatti ci sarà verso la sera un bel concerto fatto da un quartetto composto da un quartetto di jazzisti dedicato alla figura di Malcolm X. Per tutta la giornata sarà possibile girare nei locali del laboratorio Crash che abbiamo ristrutturato e che chi ci verrà a trovare potrà vedere con i propri occhi di che cosa stiamo parlando, di un luogo che potenzialmente in futuro, se non ci saranno sgomberi, potrà ospitare delle attività che ci auguriamo siano belle, importanti, aumentino senso critico nella nostra società e, perché no, sia anche uno spazio dove godere della cultura e delle controculture che piacciono a tanti e a tante.